cattivo prenderai un'isteria negli anni tuoi. Raccogli i pezzi di una vita di bugie e ipocrisia. Ponti di corallo su di te, che mangi e vivi come un re. Cammina e pensi ad una vita senza un brivido. Hai dei nuovi occhi su di te. Seguimi, non perderai l'ultimo treno. Ferma solo un attimo la giostra del tuo tempo. Onde di una linea di pazzia, con un traguardo di isteria. È solo un attimo